24 mattino. Eccoci alle 8 e 16 minuti, oggi con una Deborah Rosciani, anche lei allegra perché la Juve finalmente ha vinto. Parliamo di economia. Con Teletu parli e navighi 6 mesi gratis. Info e copertura al 1922 o su teletu.it. Vi presenta Soldi e dintorni. Eccoci, ci stiamo avvicinando alla partita di domenica. Mamma mia, lunedì. Juventus Milan. Chissà chi verrà con gli occhi neri tra me e te. Magari con gli occhi rosso neri. Se qualcuno non è in onda lunedì mattina, il motivo lo sapete già. Vabbè. Ci scanneremo calcisticamente, figurati. Ma sì, guarda. Sportivamente. Finisca pure con un 3-0 per il Milan. Ecco, ma dai, sì. Allora di che parliamo? Così, Ferrara. Allora, lo sai che è scoppiato una sorta di millennium bag a scoppio ritardato. In Germania. Te lo ricordi, tra l'altro, quello che è successo, no? Tra il 99 e il 2000, quando c'era l'incubo che andassero in tilt tutti i sistemi informatici delle banche. Esatto, perché si temeva appunto che le banche non fossero in grado di riconoscere i sistemi informatici delle banche, non fossero in grado di riconoscere il nuovo millennio. Non successe niente, in realtà tutta l'Europa l'ha scampata in questa fase di passaggio epocale molto importante. Invece a distanza di 10 anni, con l'era dell'euro pienamente consolidata ovunque, c'è stata un'altra disavventura che ha visto come malcapitata protagonista, l'avete sicuramente letto ieri mattina su tutti i giornali, la più importante economia dell'eurozona, la Germania. Una disavventura che è stata ribattezzata Decennium Bug, anzi non bag perché bag è la borsa, in onore appunto del 2010, quindi proprio il baco del decennio. Cosa è successo a milioni di cittadini tedeschi nel primo giorno dell'anno? Che in sostanza questa nuova data ha mandato in tilt oltre 20 milioni di carte di credito e di debito, provocando disagi non solo all'intero settore bancario, ma anche a milioni di cittadini nel paese e a coloro che in questi giorni si trovano all'estero per le feste natalizie, quindi tedeschi che se ne sono andati un po' in giro per il resto d'Europa ma non potevano utilizzare le proprie carte di pagamento. Allora, cosa è successo questa mattina? Ce lo facciamo spiegare da un esperto che è a capo di una società che opera nell'ambito della sicurezza degli strumenti di pagamento, e in realtà con lui faremo anche chiarezza su un altro tema legato alla sicurezza dell'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici nel nostro paese. Allora, buongiorno a Walter Bruschi, Country Manager di CPP Italia, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Io l'ho detta all'italiana, ma CPP è la divisione della multinazionale inglese specializzata nella tutela delle carte di pagamento. Non so come all'inglese la pronunciate, dottor Bruschi. Card Protection Plan. Perfetto, quindi una grandissima fantasia. Esattamente, allora no, adesso non volevo prenderla in giro naturalmente, no, certo. Però in sostanza l'estensione è questa. Allora, cosa ne pensa di quello che è accaduto in Germania? Avrebbe potuto accadere anche in Italia, secondo lei? Ma diciamo che in Germania fondamentalmente si è trattato di un problema di programmazione dei chip legati alle carte di credito del circuito Eurocheck. Diciamo che è stato un errore di programmazione e per una volta non si può parlare di frodi o di problemi collegati, diciamo, con quello che è l'utilizzo della carta di credito nel vivere quotidiano. Sono problemi informatici? Ritengo di no. Ritengo che in Italia non avrebbe potuto capitare, anche perché erano già stati fatti dei controlli a monte in precedenza per evitare problemi di questo genere. No, peraltro lei mi dice, insomma, è stato un errore di programmazione. Sì. Mi stupisco anche un po' dell'ingenuità per chi opera in questo settore, dovrebbe essere il super esperto in grado assolutamente di prevenire un tipo di eventualità clamorosa come questa, perché insomma ci sono andati di mezzo 30 milioni di clienti almeno delle banche tedesche. Infatti, con dei disagi non da poco, soprattutto perché si trovava all'estero, come giustamente diceva prima, che si è trovato con le carte di credito inutilizzabili dalla sera alla mattina. E invece mi pare di capire, insomma, che se qualche italiano fosse stato a Berlino in questi giorni non dovrebbe aver avuto alcun problema, perché altrimenti le associazioni dei consumatori si sarebbero scatenate sicuramente anche con le banche tedesche. Invece a quanto pare è stato solamente un problema di tedeschi che operavano con la propria carta sul proprio territorio, un problema peraltro circoscritto anche a qualche ora, e tedeschi che se ne sono andati in giro per l'Europa in questi giorni, che non potevano utilizzare le proprie carte. Mi pare di poter sintetizzare così, dottor Bruschi, anche in secondo quello che ne sa lei. L'analisi è perfetta. Benissimo. Allora, se in Germania le carte di credito si sono scontrate con questo disguido e questo clamoroso malfunzionamento informatico, qui in Italia sembra esserci un altro problema connesso alla sicurezza. Voglio subito chiarirlo ai nostri ascoltatori, soprattutto a quelli che non vogliono proprio utilizzare né la carta di credito né il bancomat perché sono assolutamente affezionati al contante. A noi parliamo di un problema di sicurezza che non riguarda la qualità e la sicurezza della carta come strumento di pagamento, ma parliamo di un problema di sicurezza legato ai comportamenti. Dottor Bruschi, avete fatto un'indagine proprio nel periodo immediatamente precedente all'avvio dei saldi invernali, scoprendo che cosa? Ma dunque, abbiamo condotto questa analisi scoprendo che c'è una scarsa propensione da parte di noi italiani nell'utilizzo dello strumento elettronico di pagamento, quindi le carte di credito e di bancomat. E questo in realtà è stata una conferma, perché questo lo sappiamo peraltro molto bene, nonostante i passi avanti, ma è un atteggiamento piuttosto noto in Italia. È un atteggiamento piuttosto noto che ci mette un po' a fare il fanalino di coda a livello europeo su quelle che sono il numero di utilizzi delle carte di credito e dei bancomat mediamente che vengono fatti in un anno. Ma la cosa importante era cercare di capire il perché, cosa c'era, diciamo, dietro questo fenomeno. Dietro questo fenomeno è emerso chiaramente che fondamentalmente abbiamo una grossa sfiducia da parte del consumatore su quella che è la sicurezza proprio nell'utilizzo dello strumento, nel senso che molto spesso la carta di credito viene vissuta come un mezzo di pagamento che ti può lasciare esposto, diciamo, a subire frodi, subire truffe che possono danneggiarti, diciamo, parecchio. Ecco, quindi questo è un pochettino quello che è emerso da questa nostra ricerca, e che non è, come giustamente diceva lei poc'anzi, non è assolutamente vero nel riscontro, diciamo, dei fatti, perché il sistema legato alle carte di credito e legato ai bancomat è estremamente sicuro e offre tutta una serie di tutele ai consumatori anche nel caso si verifichino, diciamo, dei fenomeni truffaldini. Ecco, a proposito di fenomeni truffaldini, dunque voi avete interpellato i clienti, quindi gli utilizzatori di carta di credito, no? E gli avete fatto che tipo di domanda? Perché mi pare di capire che siano venute fuori delle cose interessanti a proposito anche del rapporto che si instaura con gli esercizi commerciali, laddove quando una persona presenta una carta di credito mediamente dovrebbe sentirsi fare un altro tipo di richiesta: fammi vedere il tuo documento per vedere se la tua carta corrisponde, appunto, è la tua, se sei proprio il titolare di questa carta. Prima cosa, mi pare che questo atteggiamento da parte dei commercianti ci sia molto raramente. C'è molto raramente, in effetti è stato visto solamente in alcune catene di grande distribuzione, giusto nel periodo di Natale, che facevano questi controlli, diciamo, qualora il cliente pagava con la carta di credito. Ecco, anche questo ha creato però un'altra risposta che sinceramente ci ha lasciati un po' perplessi. Molto spesso il cliente, nel momento in cui presenta la carta di credito e gli viene chiesto un documento, non lo vive come un fenomeno a sua tutela, ma lo vive come un ulteriore fastidio o un come si permette questa persona di chiedermi i miei documenti. Ecco. Quindi c'è anche questo tipo di approccio che fondamentalmente è dovuto a una mancanza di informazione su quelle che sono, diciamo, le capacità e le effettive possibilità di utilizzare una carta di credito nel modo più sicuro possibile. L'analisi che avete condotto mi pare di capire che porti anche ad un'altra conclusione: una volta che io vado a fare la spesa, appunto, vado all'Esselunga vicino a casa mia, pago con la carta di credito, mi chiedono il documento per verificare, appunto, se la titolarità effettivamente della carta sia la mia, c'è un altro passaggio che bisognerebbe fare, cioè fare la verifica delle firme che coincidono, quella sul documento e quella sulla carta. Anche questo è un passaggio che generalmente il commesso non esegue molto volentieri. No, viene generalmente disatteso anche questo, in effetti. Ecco, senta, voi, da quello che ho capito, come attività assicurate le carte di credito, quindi vi interfacciate con le società emittenti e con le banche, giusto? Esattamente. Ecco, ma nel momento in cui fate questo lavoro, raccomandate anche a queste aziende affinché a loro volta raccomandino agli esercizi commerciali di eseguire queste verifiche, perché poi chiaramente la truffa costa all'utente ma costa anche al sistema. Assolutamente sì. Che tipo di campagne fate, insomma, per sensibilizzare su questo fronte? Ma diciamo che noi con le banche abbiamo ovviamente dei contatti quotidiani dove si parla molto spesso anche di prevenzione di potenziali frodi e quant'altro, e questa è l'azione che facciamo da una parte. Dall'altra, avendo 700.000 clienti in Italia, praticamente una delle cose che facciamo è cercare di fare formazione anche nei confronti di questi nostri clienti o dei consumatori in generale su come utilizzare la carta di credito al meglio, in un modo sicuro, insomma. Ecco, quindi c'è purtroppo una carenza di informazione nei confronti dell'utilizzatore finale della carta. Il sistema è sicuro, uno può usare le proprie carte, il proprio bancomat con la massima tranquillità e la massima serenità. Molto spesso però l'utilizzatore finale non è a conoscenza, diciamo, di quelle minime avvertenze che possono metterlo tranquillamente al riparo da rischi potenziali. Dottor Bruschi, noi stiamo chiudendo, allora magari diamole noi queste avvertenze finali. Noi abbiamo avuto moltissime volte ospite sia Soldi e Dintorni che a Salvadanaio Labi, che queste raccomandazioni continua a farcele. Intanto, per esempio, chiaramente, se ci viene rubato il portafoglio, cioè dentro la carta di credito piuttosto che un sacco di contanti, il contante non lo vediamo più, ma quantomeno la carta di credito la possiamo bloccare, e se qualcuno fa un prelievo o fa un pagamento con la carta, sicuramente la banca ci risarcisce. Quindi questo è bene che tutti lo sappiano, e molto spesso non si sa. Qualcos'altro da raccomandare ai nostri ascoltatori, anche quando vanno in un negozio e si sentono chiedere il documento perché utilizzano la carta? Non abbiate paura, non succede niente. Diciamo che il negoziante in quel momento sta tutelando l'interesse proprio del consumatore che sta usando la carta di credito, che se non fosse lui rischierebbe una frode. Benissimo. Dottor Bruschi, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro buon lavoro. Ci racconti poi di altre indagini che fate su questo terreno, perché ci interessano sempre molto. Ben volentieri. Buona ben giornata, volentieri. Arrivederci. Altrettanto voi. Alessandro. Eccoci, Salvadanaio. Ah, oggi guarda, facciamo il tagliando di inizio anno agli investimenti dei nostri ascoltatori con un consulente finanziario indipendente ed un promotore finanziario. Benissimo. Noi parliamo nel nostro sondaggio di oggi, partiamo da questa domanda: secondo voi è possibile l'integrazione degli islamici nelle società non islamiche, nelle società occidentali? Prendiamo spunto da una polemica suscitata da un editoriale del professor Giovanni Sartori qualche giorno fa sul Corriere della Sera, che ha detto sostanzialmente storicamente non è mai successa questa integrazione, e dunque insomma non è evidentemente possibile o difficile. Che ne pensate? 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta per votare il sondaggio, radio24.it o il sole24ore.com, lo trovate tra un attimo. 24 mattino. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8.31 minuti, le notizie in primo piano. Poco fa è cessato l'allarme all'aeroporto di Ciampino, dove è stato fatto brillare dagli artificieri un bagaglio lasciato incustodito al terminal partenze dello scalo romano, che aveva costretto le autorità locali a bloccare le operazioni di check-in. Dunque ora si stanno completando le operazioni di bonifica prima della riapertura del terminal. Il 2010 sarà l'anno delle riforme, lo ha detto Silvio Berlusconi parlando con alcuni europarlamentari. Riforme annunciate dal Premier sono quelle su fisco, giustizia e scuola. 4 casi nuovi di presunta malasanità in Italia. Foggia, la procura indaga sulla morte di 2 neonati. A Pisa, un 29enne è morto dopo essere stato dimesso per un presunto strappo muscolare, mentre a Bari un anziano è deceduto in seguito alla caduta da un'ambulanza. Il PD chiede un garante per la salute. Infine, per il calcio, alla ripresa del campionato vincono le prime della classe, l'Inter che batte il Chievo, con gol di Balotelli che poi reagisce ai fischi dicendo il pubblico di Verona mi fa schifo. Vincono anche Milan e Juventus, così come Fiorentina, Napoli, Lazio, Bari e Catania. E allora le 8.32 minuti, parliamo oggi di integrazione, parliamo oggi di Islam nel nostro sondaggio. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. La domanda che vi poniamo, alla quale state già rispondendo in tantissimi, mi dice anche la nostra Laura Marchesi che i centralini ribollono per le telefonate degli ascoltatori all'800 24 00 24, è questo: secondo voi è possibile l'integrazione degli islamici nelle società non islamiche? Prendiamo spunto da un articolo appassionato che il professor Giovanni Sartori il 20 dicembre ha scritto sul Corriere della Sera dal titolo L'integrazione degli islamici, che ha dato vita poi a un vivo dibattito molto fervido. Professor Sartori, buongiorno. Buongiorno. Ne ha combinata un'altra, no, scherzo. Bene, bene, ci vuole un po' di vivacità. E certo, allora, intanto le dico, e questo forse le farà piacere per i tanti che stanno già votando, non so, penso le farà piacere, il 71%, il 74%, anzi, si aggiornano ovviamente esami in tempo reale, il 74% di chi vota dice no, non è possibile l'integrazione degli islamici. Lei sostanzialmente è partito dicendo questa premessa: tra poco si discute sulla cittadinanza, sull'italianizzazione parlare di chi sta qui. La questione riguarda soprattutto gli islamici e ha detto storicamente, purtroppo in maniera sconfortante, non esiste caso nella storia in cui gli islamici si siano integrati in società non islamiche. Questo perché, tra le altre cose, l'Islam è un invasivo monoteismo teocratico che si sta via più infiammando. Immagino che da questa sua analisi storica derivi il fatto che lei è molto pessimista, molto scettico sulla possibilità di integrazione degli islamici, se non è mai successo finora, dice. Ma insomma, non è pessimismo, questo, io ho fatto una constatazione di fatto che è esatta, ora sui giornali si abbrevia, ma insomma la conosco abbastanza bene questa vicenda. Si capisce, dipende da cosa si intende per integrazione, ma anche se si intende soltanto, come intendo io, integrazione nei valori etico-politici, non in altri. Uno può mantenere la sua religione, i suoi costumi, le sue tradizioni, la sua vita domestica, tutto il resto un immigrato lo può mantenere, deve accettare però le regole etico-politiche della società nella quale entra, e che questo l'islamico non l'ha mai fatto perché è una teocrazia, cioè lui obbedisce al volere di Allah o di Dio, se vogliamo, e questa è la natura della sua religione. E che lei l'ha rafforzato dicendo, al contrario di, che ne so, cinesi, giapponesi, indiani, che si sono integrati pur mantenendo la loro cultura, la loro tradizione, la loro religione, l'islamico no. Insomma, è molto forte. Ma perché? Se dico che gli altri non hanno religioni monoteiste, quindi è molto più facile. Anche l'ebraismo è un monoteismo, anche noi, insomma, siamo... Sì, ma appunto ho precisato che gli ebrei, siccome sono monoteisti, ma non sono surriscaldati come lo è in questo momento il fondamentalismo islamico, sono stati perseguitati per millenni, hanno resistito, mantengono la loro identità, ma possono benissimo accettare i valori etico-politici delle società occidentali, anche perché poi questi valori sono gli stessi espressi a suo tempo dall'evoluzione del cristianesimo. Certo. Lei, professore, si è molto inalberato con chi l'ha paragonata, ha tirato in ballo la Lega, dicendo parla come un sindaco leghista, professor Sottè. Mi è parso un colpo basso, voglio dire. Io faccio riferimento in questa diagnosi soprattutto a Toynbee, cioè che è il più grande storico delle civilizzazioni, il quale dice quando una civilizzazione decade, e questo è stato il caso dell'Islam, quando sono sopravvenuti gli ottomani, quando una civilizzazione decade o sparisce del tutto, oppure si chiude in se stessa e si difende rendendosi impermeabile, ecco, e allora non ha più capacità di accogliere, capacità di assorbire e capacità di trasformarsi, e questo è il caso dell'Islam. Il fondamentalismo è un ritorno alle origini, dice noi dobbiamo ritornare come eravamo nel 600. Questa è la tesi di Toynbee, che è uno studioso. Le chiedo anche questo, perché poi la sta ascoltando il nostro ospite e vorrei il suo parere. Chi sono, e lei se l'è presa anche definendoli pensabenisti, chi sono i pensabenisti? Sono tutti coloro che hanno sostenuto che basta dare la cittadinanza e l'integrazione avviene. Cioè che cittadinanza uguale integrazione. Mai vista, cosa c'entra? Quindi dare una cittadinanza gratuita non solo è pericolosissimo perché possono creare il partito islamico e poi chiedere le elezioni, si sa come vanno, voglio dire, chi ha voti ottiene, vero? Sì, lei oggi è tornato proprio sul Corriere a dire oggi poi fanno massa critica, hanno la cittadinanza, chiedono un partito, chiedono i programmi islamici e questo non sia mai. Insomma, possono dire la mia religione mi vieta di obbedire alle leggi italiane, quindi noi chiediamo che per noi le leggi italiane non si applicano. Poi veniamo anche a quelli che lei propone come rimedi oggi sul Corriere della Sera. Intanto voglio salutare il professor Stefano Allievi, che l'ha ascoltata. Professore, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. Tra l'altro è docente di sociologia a Padova, è uno dei massimi studiosi dell'Islam, anche dell'Islam in Europa e dunque dell'integrazione o non integrazione in Europa. Oggi Avvenire ha una pagina, secondo me, che vi segnalo, straordinaria, pagina 3. Spiega Marina Corradi in l'esempio di un ghetto, definito così nel titolo, ad Amsterdam, a Sleuterwad, periferia dove gli olandesi se ne sono andati, e poco a poco c'è stato un insediamento sempre più massiccio di stranieri. Ormai non si trova un bar ma solo kebab, e nei supermercati molte cassiere portano il velo. Questo sarebbe, secondo Avvenire, uno degli esempi di fallita integrazione. Professor Allievi, non so se lei si riconosce nel pensabenismo di Sartori, ma comunque so che certamente non la pensa come professor Sartori. In cosa, secondo lei, sbaglia professor Sartori nella sua analisi? Ma intanto nelle generalizzazioni, sono discorsi perfettamente legittimi e totalmente astratti, nei quali non c'è uno straccio di esempio storico, non c'è una percentuale, un esempio. Prendo proprio lo spunto dall'ultima riflessione, quella che se hanno il diritto di voto allora si fanno il partito islamico. Beh, abbiamo le prove: in Gran Bretagna hanno il diritto di voto da sempre, in Francia pure, in Belgio, in Olanda in molti casi votano, non hanno fondato partiti islamici, se li hanno fondati hanno preso lo 0,8 e per il resto votano laburista, conservatore, verde, esattamente come gli altri. Quindi bisognerebbe ogni tanto, io capisco le opinioni, le paure, i timori. Quello che non capisco è, come dire, come si possa prescindere in toto da un minimo di osservazione empirica. Però adesso, scusi professore, per brevità io non l'ho detto. In realtà il professor Sartori nel suo primo editoriale esempi storici ne ha fatti. Adesso non li voglio ricordare perché sennò, però ne ha fatti di esempi storici alcuni. Io sono davanti all'editoriale in questo momento, ma come dire, anche quelli si possono scegliere. Uno dice l'Islam è incompatibile, che ne so, con la democrazia, che è un discorso astratto, perché se avessimo preso il cattolicesimo negli anni 30 avremmo detto che è incompatibile con la democrazia, invece sappiamo che non lo è. Allora forse perché allora c'era Salazar, Franco, Mussolini, gli Ustascia croati e compagnia. Allora forse il problema è che non è il cattolicesimo in sé o non è l'Islam in sé, ma è lo sviluppo storico e lo sviluppo economico che dovremmo mettere in questione, perché nelle aree in cui, come dire, l'Islam non è democratico, ce ne sono tante, sono aree in cui i paesi vicini, che siano indù o animisti eccetera, non lo so, o cristiani, non lo sono altrettanto. Quindi anche lì il problema non è di usare la categoria religiosa come onnicomprensiva di un processo di sviluppo. Io vorrei che li incontrassimo i musulmani in Europa, allora troveremmo senz'altro i fondamentalisti che descrive Sartori, e ha ragione a dire che sono preoccupanti, bisogna aver timore di loro, e troveremo senz'altro anche persone che non ci si identificano per niente con i fondamentalisti. Cioè, vediamo, questa è una prima critica, il no alla generalizzazione. Questo, professor Sartori, è una critica che le hanno fatto in molti, cioè dire sì, ci sono i pazzi, ci sono gli scriteriati, ci sono quelli che si vogliono far saltare in aria e che si sono fatti saltare in aria. Lei però in una prima controreplica ha detto: se anche fossero due, mettiamo che fossero uno o due su un milione. Sono due su un milione. Va bene, però perché questo la spaventa così tanto? Lei dice anche questi due destabilizzano la società. Su un miliardo e passa, bastano a creare l'uomo bomba, che naturalmente è per l'Occidente un fatto terrorizzante, data però la tecnologia. Percentualmente rimangono sempre quelli, c'è cioè una bastano mille uomini bomba per mettere in terrore in tutto il mondo tecnologico sviluppato, voglio dire. E che dobbiamo fare? Per quei mille dobbiamo rinunciare o dire? No, io non rinuncio a niente, dico cosa devo rinunciare? Ci dobbiamo difendere, ovviamente. Poi quei mille possono sviluppare anche armi chimiche letali, vero, se hanno uno spazio e un territorio, quindi quelli possono ammazzare centinaia di milioni di persone. Ma capisce, l'obiezione è semplicemente per via chimica, ma l'obiezione è lì. Io gli faccio un esempio concreto, dico sui giornali non si può fare tutto, ma pensi in Israele, quindi religione monoteistica eccetera eccetera, gli ultraortodossi. Gli ultraortodossi, che sono, mi pare, il 20% della popolazione, cittadini ebraici, hanno costruito all'interno della società ebraica un controstato non vanno, non hanno il servizio militare, hanno le loro scuole, sono completamente fuori dalla disciplina, diciamo, più o meno laica dello Stato di Israele. Ecco un esempio concreto. Dico, l'analogia è forte. Va bene. Tanto che gli ebraici sono non hanno... questo surriscaldamento, lei l'ha definito surriscaldamento, non sono surriscaldati. No, è bello il termine. Poi, insomma, vediamo, professore, sia Sartori Allievi, come detto, i centralini ribollono 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Sempre per ora il 76%, quindi è aumentato di 2 punti percentuali. Il 76% dice: il professor Sartori ha ragione, non c'è integrazione, non c'è possibilità di integrazione. Vediamo prima nel traffico Marzuk da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. No, nulla, io gli do ragione pienamente, perché io vengo da un mondo arabo, da un paese arabo, e 30 anni sono qua, è veramente difficile, non per me, io ormai, cioè, sono contento, sono felice e sono inserito bene, io, la mia famiglia e i miei figlioli sono nati qui, sono battezzati, eccetera, eccetera, insomma, non sono... hanno la loro libertà di vita, insomma, le sì, sono feriti sì. Bene, io, insomma, loro sono contenti. Però parlando con alcuni dei compaesani, veramente è una cosa assurda. Anche tornando là, siamo legatissimi là. Cioè, non si può sfuggire, non si può cambiare. È una cosa cioè, assurda. Noi siamo in ritardo come musulmani, come mondo musulmano, di 100 anni, capito? Però lei dice: io sono un esempio di integrazione avvenuta e concreta. Però mi sembra di aver capito che lei dica ha ragione, cioè non è possibile, o è meglio, è molto difficile l'integrazione degli islamici. Non è possibile per la maggior parte, capito? Ma non la maggior, una percentuale alta, perché se io domani vado, mi dichiaro direttamente dai miei familiari, perché ci tengo alla mia terra, non alla religione, tengo ai miei familiari, alla terra, alle origini, no? Cioè, non trovo spazio, non trovo nemmeno dei miei parenti vicini, dal babbo, della mamma, eccetera, eccetera. Ma si dichiara che vuol dire? Perché lei, adesso intuisco, lei ha detto battezzati, cioè perché... Sì, figlioli. Io, a parte musulmano per nascita, come un cattolico, cioè... non praticante, capito? Sì, non sono mai stato praticante, siamo praticanti finché siamo bambini, poi dopo uno piglia la sua libertà. Io ho avuto questa occasione con i miei, però nello stesso tempo, nel contesto familiare stesso, non è io ora sono tornato 2 anni fa, ho discusso un casino con i miei familiari, tutto, ma c'è un muro. Immagino. Grazie Marzuk, devo andare al traffico. Grazie Marzuk da Firenze, traffico, poi riparto da Francesco da Torino e torno al nostro professor Giovanni Sartori e il professor Stefano Allievi. Io sono o blanco o nero, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, nel nostro bianco-nero di oggi vi chiediamo se secondo voi sia possibile l'integrazione degli islamici nelle società non islamiche. 800 24 00 24, se volete intervenire. Francesco da Torino, forse è caduto, non è caduto. Andiamo da Giuseppe da Monza. Buongiorno. Giuseppe, c'è? Giuseppe. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Che dice? Ma io dico che il professor Sartori ha perfettamente ragione. Dobbiamo difenderci con delle armi proprie, naturalmente, per esempio disincentivare la costruzione di moschee, disincentivare il regalare la cittadinanza e cose di questo tipo. Disincentivare la cittadinanza. All'altro signore, invece, sì? Raccomanderei di andarsi a leggere gli ultimi scritti di Oriana Fallaci. Di Oriana Fallaci, lei ha citato Oriana Fallaci. A proposito, io, professor Sartori, lei si è inalberato o si è stato definito accostato ai leghisti? Accostandola alla Fallaci? No, non credo, lei già la difese nel 2001. Dico, da ultimo sono stato critico delle sue ultime posizioni, che mi sono sembrate eccessive, ma io ho grande rispetto dell'Oriana Fallaci, che è stato un grande personaggio, e siamo stati anche vicini tutta la vita. Certo. Quindi, a proposito dei rimedi, cappello basso. A proposito dei rimedi, perché lei oggi ne propone alcuni, dice per esempio i tedeschi. No, ci sono sempre stati, sono stati travolti dal novitismo. Dal novitismo. Non sono sufficienti, non sono abbastanza progressisti, non sono avanzati. Insomma, ci sono stati, possono funzionare anche. Ecco, lei propone, lei non propone, lei ricorda, i tedeschi accolsero milioni di turchi come lavoratori ospiti, oppure noi abbiamo e avevamo i permessi di soggiorno a lunga scadenza. Cioè, che vuol dire? Nel senso che potrebbero essere aggiornati, stiano qui un po' e poi ritornino? No, come? No, ma in pratica, vita, dico, venivano rinnovati, questo era l'unico, ma insomma una persona che era qui, che aveva lavoro, eccetera, aveva il permesso di soggiorno a vita. Mia madre ha avuto una badante del Kenya che ha avuto un permesso di soggiorno, quanto è stato, per 40-50 anni, non era un problema. E soprattutto gli Stati Uniti hanno per la green card, quindi la residenza, sì, che abita e che funziona bellissimo. Cioè, così sì, però cittadini italiani no, ecco, non così velocemente, non così rapidamente. No, insomma, non c'è bisogno di creare il cittadino, si può creare il residente. Allora, professor Aglievi, torno un attimo da lei. Professor Aglievi, prima vorrei, ha sentito anche l'ascoltatore a dire si rilegga, li avrà letti. Il professor Aglievi è uno studioso dell'Islam, è uno che legge molto, ha letto anche la Fallaci, immagino di sì. Nella sua memoria ho anche risposto ai suoi libri, quindi, ma non è quello il problema. Il problema è proprio la contraddizione nei termini, cioè io vorrei che le persone che parlano astrattamente di Islam vedessero i bambini a scuola ed entrassero persino nelle moschee, dove in qualcuna troveranno messaggi fondamentalisti di chiusura, nella stragrande maggioranza delle altre no. Il professor Sartori ha detto no, gli ebrei ci mancherebbe, sono un esempio di integrazione, però gli ultraortodossi sono un pericolo. Ecco, allora facciamo lo stesso ragionamento anche con gli altri. Perché a usare le categorie, allora abbiamo dovuto dire, siccome ci sono dei terroristi di destra o di sinistra che si ispirano a tradizioni politiche nobili, aboliamo, non frequentiamo le tradizioni politiche nobili. Non credo, no, che abbia detto gli ultraortodossi siano un pericolo. Cioè sono una cosa diversa. Hanno fatto uno Stato nello Stato e quindi lì si vede dove c'è il problema. Allora, se vogliamo fare una pronto? Sì, siamo qua. Se vogliamo fare una politica intelligente è quella, uno, di promuoverla davvero l'integrazione invece di fare tutto perché non ci sia, perché allora certo che non c'è, se anche noi facciamo di tutto perché non ci sia, non ci sarà. Però il problema è invece svilupparli, per esempio, i luoghi di culto, però aperti, legali, come dire, non demonizzati, cioè garantire ai musulmani esattamente gli stessi diritti che hanno gli indù, i cattolici, gli ebrei e gli altri. Professor Sartori ci stava negli Stati Uniti. Beh, negli Stati Uniti i musulmani sono cittadini e è uno dei paesi dove le moschee ce n'è di più. Allora cerchiamo di analizzarle un po' più complessivamente queste vediamo cose. Che dal punto di vista finisco, dal punto di vista sessuale tattico. Se è vero, come è vero, che c'è un pericolo terrorismo islamico transnazionale ed è un pericolo serio, combattiamolo cercando di fare in modo che anche la stragrande maggioranza dei musulmani, che ne è vittima anche nei loro paesi, sia nostra alleata, anziché demonizzare anche loro in modo che così, come dire, li mettiamo tutti in un grande calderone in cui di amici non ne abbiamo più. Vediamo altri due ascoltatori, se sono rapidi. Omar da Milano, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno a lei, suo interlocutore. Cioè io voglio magari, non so, parlare di una cosa che sono due cose diverse, magari l'Occidente non è che all'Occidente non interessa la nostra integrazione, interessa più la nostra disintegrazione, questo è il punto. No, aspetti, aspetti, ho capito perché parlavo un po' rapidamente. All'Occidente interessa non la nostra integrazione, ma la nostra disintegrazione, disintegrazione dei nostri valori, dei nostri, quello che l'Occidente ha cercato di fare con guerra, con l'invasione nei paesi le crociate, non ha riuscito, lo vuole farlo adesso con l'immigrazione, nel senso, lasciate la vostra, nel senso, i musulmani, l'insegnamento religioso non hanno nessun problema. Ma chi dice che vogliamo disintegrare i valori? Il professor Sartori non ha detto vengano qua, tenete i vostri valori. Perché se quando si parla di integrazione si parla di non mettere il velo, si parla di moschea, si parla sempre dei valori religiosi, non si parla magari di se un musulmano magari rispettoso che lavora, paga tasse, rispetta la legge italiana, se ha il diritto di votare va a votare, se noi la pensiamo così, viviamo, io mi sento un ospite, sono 20 anni che sono qui e rispetto questo paese che mi ha ospitato e lo rispetto fino in fondo, nel senso che non pretendo, noi non abbiamo chiesto mai, io non ho mai chiesto di togliere penso. Non ho mai, quasi io sono ospite della società che rispetta lei, la società. No, lei si sente ospite, è chiarissimo. Professor Sartori, lei si sente. Omar da Milano ci dice: l'Occidente vuole disintegrare i nostri valori, non integrarci. Lei ha detto: venite qui, mantenete tutti. Io ho detto che l'integrazione non è un'assimilazione, quindi non è questa la mia tesi. Però vorrei fare un rilievo, vabbè, pazienza, voglio rispondere al professor, sì, professor Allievi, che mi accusa di astrazione. Dico, il discorso razionale è un discorso astratto, se non lo fosse non esisterebbe. Quindi che cosa vuol dire? È un'astrazione, quella che io faccio, che è il principio fondante, di dire che mentre in un sistema teocratico, lo è, sarà un'astrazione dirlo, ma l'Islam è un sistema teocratico, la volontà di Allah è la volontà che prevale, che decide, mentre in un sistema democratico è la volontà del demos che decide. Questo è il rovesciamento completo di un principio di legittimità. Sarà un discorso astratto, ma questo è il problema iniziale dal quale si vede che si tratta di due sistemi di credenze ben diversi, e l'uno è il rovescio dell'altro. Questa è una premessa fondante. Beh, questo è importante. Questo non si capisce. Questo niente. È importante. Non so se il professor Allievi ha colto, però la riassumo così: dice il professor Sartori, sarà anche un'astrazione. Lei dice, ha fatto l'accusa di astrazione. Il professor Sartori dice: sarà un'astrazione, ma in un sistema teocratico come l'Islam è Allah che decide, mentre in un sistema democratico è il demos, insomma, che decide. Questa è la contrapposizione forte, certo, inevitabile, certo. Voglio dire, che c'è e dalla quale non si può non partire se non si vuole capire tutto il resto. Piccolo dettaglio della storia, che oltre un terzo dei musulmani oggi vive in paesi non musulmani, tra cui anche l'Occidente, e anche dove sono musulmani ma hanno la democrazia, non sono molti paesi ma ci sono, voglio dire, votano esattamente come tutti gli altri. Se vogliamo giocare con gli esempi, ne possiamo trovare di tutti i tipi. In Senegal, paese al 90% musulmano, si sono votati un presidente cattolico che era Sangoa. Ma non è questo, o andiamo ad analizzare i comportamenti politici, per esempio, dei musulmani in Europa, ci sono una quantità di studi, solo che non li legge nessuno, e si scopre che, per esempio, votano, non votano i partiti islamici, ma nella stragrande maggioranza votano o diciamo socialdemocratico e verde, oppure da parecchio tempo anche ormai conservatore. In Gran Bretagna ci sono due deputati, due membri del Parlamento europeo conservatori e musulmani. Ma i partiti che ci sono, i partiti, quelli che propone il panorama politico. Esattamente come noi. Allora, il problema è, eppure anche loro sarebbero membri di una religione che è un monoteismo invasivo, teocratico, e guarda caso però si comportano diversamente. Va bene, vediamo se riusciamo a chiudere con un'ascoltatrice. Paola da Trento. Paola, c'è? Sì, sì. Che allora, dice? Io volevo intervenire in questo senso. Sono d'accordo col professor Sartori che un problema di integrazione esiste. Io penso che l'integrazione sia possibile solo se la nostra società riscopre i suoi valori, che sono di matrice giudaico-cristiana, e non li rinnega, perché altrimenti veramente diamo l'impressione di essere terra di conquista dal punto di vista morale e etico, perché allora è accettabile la poligamia, è accettabile una condizione della donna di un certo tipo, è accettabile tutto quello che nel mondo islamico deve essere soggetto di ragionamento, di uso della razionalità, della ragione. Io, perché non è che tutto quello, sì, che è il mondo dei valori islamico va preso in toto. Questo no, la ringrazio Paola con il suo intervento. Voglio concludere ringraziando il professor Giovanni Sartori, credo che anche nei prossimi giorni il dibattito si animerà con editoriali e commenti, così come ringrazio il professor Stefano Allievi, che insegna sociologia a Padova, studioso dell'Islam. Grazie davvero, il dibattito mi è piaciuto molto. A me, non so, mi è piaciuto molto, non so a voi. Comunque continuate a votare, però il 76% sempre dice siamo con il professor Sartori, cioè ha ragione, non c'è possibilità di integrazione di islamici in società non islamiche. A domani.